Purtroppo io un po' lo immaginavo e molti di noi che si occupano di questi temi da tempo se lo immaginavano. Gli ultimi 11 mesi dopo l'invasione dell'Ucraina ci hanno mostrato che la guerra nucleare è sul tavolo, è una delle possibilità che è oggi sul tavolo, e si sta facendo pochissimo per rimuoverla dal tavolo e per mettere altri temi sul tavolo che dovrebbero essere temi di mediazione, temi di messa al bando delle armi nucleari, temi di smantellamento degli arsenali, e invece siamo affidando sempre più le soluzioni alle armi. La cosa che colpisce è che questi allarmi, insomma l'allarme dell'orologio d'apocalisse, diciamo, è solo l'ultimo. Anche il segretario generale dell'ONU ne ha parlato e, come dire, basterebbe un misunderstanding per far precipitare la situazione. È proprio quello, è proprio quello. Questo lo diciamo anche da molto prima dell'invasione dell'Ucraina, diciamo in tanti, e siamo tantissimi sotto l'ombrello della campagna internazionale per la messa al bando delle armi nucleari, ICAN, che ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2017. Siamo in tutti i continenti, ci sono movimenti che ne fanno parte. Stiamo dicendo che con le armi nucleari ancora, anche se diminuite tantissimo rispetto alla guerra fredda, ma negli arsenali ce ne sono ancora circa 12.700, molte più del necessario per far esplodere l'intero pianeta e cancellare la razza umana. Queste armi possono causare la catastrofe non solo per una intenzionale lancio bellico di quelle armi, ma anche per un incidente, e ce ne sono stati tanti e ce la siamo cavata bene, con la fortuna in un certo senso, ma non possiamo continuare a far affidamento alla fortuna. E l'altro aspetto è quello che sottolineava Guterres, la misunderstanding, tu l'hai detto in inglese, ma davvero capire male qual è la situazione, calcolare male le mosse dell'altra parte, dell'avversario, può portare, con le armi nucleari nell'arsenale, ad un'azione che magari non era nemmeno intenzionale. Restando alla metafora dell'orologio, quali sono gli strumenti concreti per riportare indietro le lancette? Ma secondo noi sono il Trattato per la proibizione delle armi nucleari, che è già stato ratificato da 68 Stati membri delle Nazioni Unite, ricordo che è oltre un terzo questa cifra, e ancora un'altra trentina di Stati è nel procinto di lavorare in questa direzione. Il Trattato ha già fatto la sua prima conferenza e ha messo in piedi le commissioni che devono provare a mettere insieme tutte le regole che servono per attuare il trattato nella realtà, ma ci sono ancora troppi stati, come l'Italia, che non si sono avvicinati ai meccanismi del trattato per la proibizione delle armi nucleari. Questo è il nostro compito in Italia, è un compito molto molto grave e serio, e lo stiamo portando avanti insieme ai comuni, insieme alle associazioni. Abbiamo scritto ai vari governi che si sono succeduti in questo paese dal 2017 a oggi, ma i governi ci hanno ignorato, diciamo la verità. Non veniva considerato un tema importante, non possono più negarlo. In merito alla guerra in Ucraina, invece, come che possibile sbocco di pace ci può essere? Il negoziato. Ci sono negoziati, tutti dicono ma non si può negoziare in mezzo alla guerra, non si può negoziare, ma non è vero, ci sono negoziati a tanti livelli, li dobbiamo spingere, incrementare, mettere lì i nostri sforzi. Lo sapete che ci sono in continuazione degli scambi di prigionieri. Allora, gli scambi di prigionieri tra le forze armate ucraine e quelle russe si fanno con il negoziato intorno a un tavolo. Poi ci sono i negoziati che parlano del commercio del grano. Se ci fosse una vera volontà di negoziare da parte di stati che non sono coinvolti nei combattimenti, io sono sicura che si riuscirebbe a proseguire, non fare tutti i passi insieme, ma un passo per volta va fatto. E invece in 11 mesi mi sembra che i nostri stati europei hanno fatto ben poco, hanno considerato che solo le armi possono risolvere la situazione. Per noi le armi possono solo aggravarla.